Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, sono le 8 e 20 minuti, ci siamo. E questo 28 di febbraio, martedì, l'ultimo giorno del mese, San Romano di Condà, che è uno di quei primi fondatori del monachesimo anche in Occidente, in questo caso nella Gallia del IV secolo, e tra gli altri santi San Marana e San Cira, due sante siriane anche del IV secolo, che pensano alla loro santità, stavano all'aperto, senza riparo, vivendo solo di carità, e per questo poi diventano sante. Cosa ricordare tra le tante cose della storia oggi avvenute? Nel 1949 in Italia nascono le case popolari con Fanfani, ed è una cosa che tutti hanno sempre nostalgia, Lina Casa, e diventerà il grande programma edilizio che consentirà a milioni di italiani, visto che l'Italia era spianata dalle bombe e dalla guerra, di avere una casa. Poi il modello fallirà e verrà sempre rimpianto, come comunque il grande progetto nazionale di housing sociale che poi nella modernità l'Italia non è riuscita più ad avere. Nel 53 tre scienziati che poi diventeranno famosi oggi proprio finiscono il loro modello con questa strana doppia elica che è il DNA, sono Watson, Crick e Wilkins, e la storia poi della biologia non sarà più la stessa, ovviamente. Vediamo un pochino, ecco, nel 77 l'Italia oggi era, per come faceva quasi tutti gli anni quando c'era la liretta, che dicano i nostalgici della lira, oggi era col cappello in mano a Washington per chiedere umilmente un prestito di un mezzo miliarduccio di dollari. Ed oggi nel 2002 era anche proprio l'ultimo giorno della lira, perché dall'indomani non avrebbe avuto più corso legale in Italia, ma rimaneva solo l'euro, perché noi li abbiamo affiancati. Quindi oggi i nostalgici della lira oggi cosa fanno? E oggi ricordano questo giorno con, anzi, come sai, Berlusconi pensa alla doppia moneta che esiste solo a Cuba, ma del resto Emiliano vuole anche lui stipendi ai politici solo come Cuba, ha detto ieri. Abbiamo una campagna elettorale di tipo cubano, cubana, in cui più cubana, che castriste me l'ha sfuggita. Ci sono più che idee castriste, ci sono castronerie, ma insomma vabbè, comunque ci siamo. Va bene. Un giorno poi ci occuperemo di tutte le proposte anche per il welfare 2.0, reddito di cittadinanza, non lavoro di cittadinanza. Hai fatto bene, no? Secondo me nella rassegna prima il caveat, cioè, ascoltato, io ho una preoccupazione, ti ho ascoltato e condivido, dici, cioè, che queste cose sono presenti, poi basta, però che vogliono vedremo i vostri voti, non tanto risolvere i vostri problemi, però vedremo. Allora, nel dare il numero di telefono, che è il solito 800 24 0024, vogliamo parlare anche oggi di, in maniera un po' più compiuta, della vicenda di DJ Fabo, che ieri è morto in una clinica in Svizzera. Suicidio assistito, questo si chiama tecnicamente la pratica, non è l'eutanasia. Non è l'eutanasia, attiva o passiva è un'altra cosa ancora. Esattamente come tra l'altro Oscar proprio oggi compirà la stessa pratica un altro italiano, Gianni, che è lì, è meno famoso, la sua storia non è conosciuta, i giornali l'hanno incontrato lì per raccontare la vicenda di DJ Fabo, forse mentre parliamo avrà già attivato questa pratica in Svizzera, come circa un centinaio di italiani fanno ogni anno, andando lì in Svizzera dove è consentita questa pratica del suicidio assistito. Come affrontare questo argomento, Oscar? Perché sì, si ragiona per steccati ideologici, per idee contrapposte, per scontri a volte sulla sacralità della vita da una parte, sul diritto alla libertà, all'autonomia fino in fondo dall'altra, su quali siano anche i confini di questo diritto, perché appunto ripetiamo, l'eutanasia attiva o passiva o il suicidio assistito sono tre cose diverse, anche se ricadono nella stessa sfera di questa disciplina delle forme di fine vita, innanzitutto di come si codifica la volontà, no? Del soggetto. Tutte le polemiche sul caso Eloana erano appunto sul fatto che non fosse codificata, che il padre sostenesse la battaglia, e questo veniva interpretato invece dai sostenitori della dignità della vita sempre e comunque come una intollerabile pubblicizzazione del ruolo del padre, ma rispetto a una incerta volontà della figlia. Quindi ogni caso presenta, ovviamente. Resta il fatto che, come dici tu, io credo, sono convinto che noi paghiamo un costo elevato, non solo su questo terreno, ma soprattutto in questo terreno, a un'evoluzione storica, una peculiarità storica. Anche gli altri paesi europei, che pure hanno leggi di tipo diverso, ma che comunque li hanno nella generalità dei casi sul rispetto della libertà nei fini vita, ripeto, leggi diverse, non tutti, e anzi la minoranza, accettano eutanasia attiva passiva e suicidio assistito assoluta, però l'eutanasia ci sono diversi paesi che hanno normative. Però il problema è che da noi non c'è, come anche lì, il dibattito tra chi è favorevole a che l'ordinamento aderisca a una scelta di vita sovraordinata rispetto a quella della libertà individuale, e chi invece sostiene l'opposto. Noi abbiamo, per la nostra storia, in ogni famiglia politica radicata una opposizione al fatto che l'ordinamento non dica la vita sempre e comunque. Il fatto che sia in ogni famiglia politica, a destra, a sinistra, sopra e sotto, ha un potere di frenata molto maggiore che semplicemente lo schieramento da una parte all'altra, perché altrimenti, sai, in politica comunque vince uno schieramento o l'altro, e questo porta a delle leggi. Ma il fatto di averle in ogni schieramento, queste posizioni, secondo me, è questo ciò che ci porta a non avere una legge di nessun tipo. Sì, si dibatte molto. Ovviamente, ecco, quello che chiederei, mi sentirei di chiedere agli ascoltatori che interverranno: date il vostro parere, noi siamo aperti ai pareri di tutti, tenendo conto del massimo rispetto intanto della storia. Comunque una persona che stava molto male e ha deciso di fare quest'ultimo, quest'ultimo passo. Iniziamo a parlarne con Maria Antonietta Farina, che è la vedova di Luca Coscioni, nonché presidente dell'Istituto Luca Coscioni, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere con noi. Buongiorno agli ascoltatori e all'invito. Intanto le chiediamo, non c'è stata un po' di strumentalizzazione di tutta questa vicenda? Ricordiamo che la legge che è in discussione, ora è stata rinviata, comunque è una legge, quella sul fine vita, sì, che Non introdurrebbe sicuramente l'eutanasia, non introdurrebbe neppure il suicidio assistito, e quindi, per parlare concretamente del caso, DJ Fabo sarebbe dovuto andare in Svizzera comunque anche con la legge. Io 10 giorni fa già lo avevo scritto, lo avevo dichiarato, rivolgendomi proprio a DJ Fabo, dicendogli: se non vuoi attendere, se non vuoi aspettare, non devi certamente chiedere alla politica una legge sul testamento biologico, perché poi una legge sul testamento biologico non lo avrebbe riguardato, perché le dichiarazioni anticipate di trattamento valgono nel momento in cui una persona non è più capace di intendere e di volere, quindi qualcuno deve disporre delle volontà scritte di quella persona nel momento in cui quella persona non è più in grado di poterle, diciamo, rivendicare in pienamente in lucidità. E DJ Fabo era lucido, era cosciente e ha manifestato, al pari di casi che già abbiamo vissuto, come il caso di Pier Giorgio Guelli o il caso di altri malati o disabili, rivendicato una volontà. Poteva esercitarla DJ Fabo nel nostro paese, una volontà di porre fine alle sue sofferenze? Sì, c'è la via italiana, io dico c'è una via italiana alla Welby. Certo, Pier Giorgio Welby, nel momento in cui ha manifestato la volontà di porre fine alla propria esistenza all'interno delle mura domestiche, dal momento delle dichiarazioni con Marco Pannella sono passati 88 giorni di lotta, di rivendicazione di un diritto costituzionalmente garantito. Ecco, DJ Fabo non ha voluto aspettare. DJ Fabo, come disabile, ha voluto immediatamente vedersi rispettata una sua libertà, e quindi ha scelto di essere assistito nel suo suicidio, andando in Svizzera. Per lei è una scelta, lei ha usato questo termine libertà, è una scelta di libertà questa? È una scelta sicuramente di estremo coraggio. Il suicidio assistito è cosa diversa dall'eutanasia, è cosa diversa dalla sedazione profonda, è cosa diversa dalla desistenza terapeutica, E questo è importante, i concetti oggi più che mai devono essere noti soprattutto insomma ai cittadini, perché per fare una buona legge o in tema di dichiarazione anticipata di trattamento o in tema di suicidio assistito o di eutanasia occorre usare i termini appropriati, giusti, cioè devono essere conosciuti, altrimenti quando noi dibattiamo, no, infatti noi anche da ieri qui con Oscar, infatti come chi accosta il caso di DJ Fabo a Luana Englaro, che sono due cose completamente diverse. Quindi Fabo poteva sospendere la nutrizione e l'idratazione, ovviamente i tempi della sospensione non sono gli stessi tempi di quando lui ha assunto un po' di liquido attivando per la sedazione, non sono i tempi ovviamente di un atto di tipo eutanasico, quindi ovviamente un'iniezione a un tempo è chiaro diverso. Per dirla in modo brutale, perché si capisca tutti, la sua morte sarebbe arrivata molto più lentamente e con maggiori sofferenze, certo. Questa è la via italiana che lei dice, mentre la in Svizzera come dire è una morte che avviene in pochi minuti, ecco, questo è importante. Ovviamente per il malato non fa differenza, nel senso che quando rivendica l'interruzione di un percorso di dolore e di sofferenza, la richiesta è nitida, quindi l'immediatezza e quindi il rispetto della sua volontà per il malato deve essere quasi, cioè, immediata. Ovviamente per chi rimane, il familiare, per chi poi aiuta a lenire dolore e sofferenza, conta. E quindi è un po' questo il dibattito, però la cosa importante è capire e comprendere come dinanzi a una richiesta di porre fine a una sofferenza, lo Stato deve necessariamente prevedere tutte le strade possibili percorribili. Quindi una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento va bene, ma in quella legge può essere anche indicato il tipo di trattamento da poter sospendere, sì. E qui invece si apre tutto un fronte di stallo che nei fatti c'è. Questo sì. Oscar, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, anche perché tra poco ci raggiungerà una persona che invece la pensa in maniera, diciamo, diametralmente opposta rispetto a Maria Antonietta Farina, vale a dire Gianluigi Gigli, che è presidente del Movimento per la Vita, è un deputato, magari ci spiegherà anche perché c'è questo stallo sulla legge che continua. Ti ricordi quando si urlava proprio dal caso di Luana Englaro che nel giro di un mese bisognava porre un argine, secondo alcuni, a questi casi e fare una buona legge? Sono passati... Non lo so, la mia fiducia è pari a zero. Io sono sincero, lo ammetto, ovviamente mi espongo a chi dice che sono sfiduciato alle istituzioni. No, sono sfiduciato alla politica italiana e adesso oltretutto lo sappiamo tutti, siamo a fine legislatura, siamo a tutti gli effetti, come si vede dai toni e dal dibattito, dentro il centro-destra, dentro, cioè, siamo in campagna elettorale. Nel campagna elettorale si farà una legge di questo tipo? Più che mai. Ma no. Come è evidente. Assolutamente no. Comunque ripartiamo tra un attimo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Ci siamo, sono le 8:37 minuti, eccoci qui. Allora, insieme a Maria Antonietta Farina, vedova di Luca Coscioni, e gli ascoltatori, Dario da Milano nel frattempo ci ha chiamato. Dario, buongiorno. Dario. Buongiorno Milan, eccoci. Buongiorno Oscar. Eccoci. Sì, volevo intervenire riguardo il fatto di DJ Fabo e dire che lo Stato nostro dovrebbe lasciarci la piena libertà di decidere su quello che vogliamo fare, perché la situazione è la nostra e nessuno ha potuto mai sperimentare cosa voglia voler dire vivere nelle condizioni di DJ Fabo o di altre persone che hanno delle problematiche molto serie, ecco. E la scelta, diciamo, di vietare questa scelta di libertà mi colpisce molto, perché non è che inficia la mia vita, ma vieto a qualcun altro di fare la propria scelta libera. E questa mi colpisce molto, ecco, diciamo, come proibizione dal nostro Stato. Dario, la sua posizione è molto chiara. Le facciamo rispondere da una persona che sicuramente, se interpretiamo bene quello che pensa, è contraria a questa posizione. Gianluigi Gigli è presidente del Movimento per la Vita e deputato. Gianluigi Gigli, buongiorno. Deputato, io buongiorno il gruppo parlamentare lo dica lei, perché con i gruppi parlamentari non si capisce niente. Lei di che partito fa parte? Perché se devo leggere il gruppo parlamentare è Democrazia Solidale Centro Democratico ex preciso. Per l'Italia. Il partito di riferimento è? Democrazia Solidale. Democrazia Solidale, perfetto. Allora, onorevole Gigli, non è una scelta di libertà quella di DJ Fabo, rivendicata anche dall'ascoltatore Dario? Ma, certamente sì. Il problema è come la libertà viene vissuta all'interno di una società. E io ho paura di una società nella quale esista o venga sdoganata la libertà di suicidio, perché di questo si tratterebbe. Un suicidio per di più per il quale noi chiederemmo l'assistenza delle strutture sanitarie. Cioè le strutture sanitarie dovrebbero prestarsi per diventare gli artefici della messa in atto di una volontà suicidaria. Ora, questo porta a diverse conseguenze: lo snaturamento della vocazione di cura delle strutture sanitarie, una modificazione profonda dello status professionale del medico e una modificazione profonda della tenuta degli stessi rapporti sociali, che in una società solidaristica, appunto, il suicidio viene vissuto come una sconfitta alla quale cercare di porre rimedio prevenendola, facendo di tutto perché non si realizzi e perché eventualmente, se qualcuno l'avesse tentato di fare, possa essere poi evitata nelle sue estreme conseguenze. Lei sa però, Gigli, che per accedere per esempio al suicidio assistito in Svizzera, anche in Svizzera, bisogna essere o dei malati terminali o avere delle sofferenze considerate dalla persona indicibili, cioè non stiamo parlando di persone che possono accedervi perché possono invece guarire o possono tornare a una situazione di vita per loro accettabile. Devono avere queste condizioni, quindi si parla di malati, molto spesso malati terminali con grandi sofferenze, quindi solo di accorciare le loro sofferenze. Il malato terminale è un malato che non ha bisogno per definizione del suicidio, perché la sua malattia è arrivata al capolinea. Il problema è proprio per il malato non terminale, cioè per il grave disabile, per la persona che comunque si trova in condizioni di restringimento della sua autonomia, della sua libertà personale. Sì. E questo è il caso, tra l'altro, proprio della persona di cui stiamo parlando. Certo. Insomma. Ecco, in questi casi qui la malattia terminale non c'entra nulla e stiamo parlando invece di una insofferenza della propria condizione di vita. Sì, considerare la propria vita non più degna di essere vissuta. Esatto. E io le replico appunto che il problema della indegnità innanzitutto dipende molto spesso proprio dall'atteggiamento che la società ha nei confronti di questi pazienti, cioè noi dovremmo farci carico della loro fragilità più che aiutarli ad uscire di scena, per così dire. Ma anche se tutto quanto questo fosse stato esperito, avessimo dato tutti gli aiuti possibili, tutta la compagnia, il superamento della solitudine possibile, se anche fosse chiaro, e non sempre è così, come lei sa, penso semplicemente al caso dell'anoressica morta pochi giorni fa a termini anche qui di un confronto giudiziario in America, no? Di cui Ashley si chiamava, almeno siamo spacciata con questo nome, e lì è stato detto che questa era assoluta libertà, ma per me e per molti colleghi le posso dire, questa era una paziente depressa, una paziente che avrebbe avuto bisogno di ben altre cure. Escludiamo anche tutto questo, rimane certamente una fetta di persone che magari non sono neanche depresse, che magari noi abbiamo anche cercato di aiutare e che rifiutano comunque la propria vita. È compito dello Stato farsi carico di tutto questo? Questa è una domanda non di poco conto, perché nel momento in cui poi il giudizio sulla dignità di vita travalica l'interessato e dovesse essere oggetto di un giudizio sociale, allora noi potremmo trovarci che qualcuno più di poco si sentirebbe, non dico obbligato dal punto di vista tecnico, ma moralmente obbligato ad uscire di scena. No, non lo so, io sono perplesso, però qua c'è Oscar Giannino che trova che di Stato... Solo due considerazioni, perché naturalmente so che bisogna tenere conto di tutti i punti di vista e ci mancherebbe mancare di rispetto. Dico solo questo, lei ha parlato, declinando caso per caso, come è giustissimo, ha sempre detto, ma ha distinto ciò che deve la collettività fare. Allora qui il problema è, sì, per esempio proprio in caso di gravissime patologie inabilitanti che rendono non autonome le persone, Invece l'ordinamento, secondo me, dovrebbe porsi il problema: c'è una sfera, quella della libertà individuale, è su questo che la politica non riesce a capire, che un conto è parlare a nome dell'ordinamento, come fate incessantemente voi, di questa entità collettiva di fronte alla quale chi ha questa valutazione che la propria vita non sia degna di essere, non è piena, non è degna, beh, bisogna comunque tentare di individuarlo come un depresso, come un altro malato da assistere, ma non è nelle piene facoltà, come è evidente, se parliamo solo dell'ordinamento a nome collettivo, di esprimere un'opinione che l'ordinamento possa considerare, e questa è una prima faccenda. Però la seconda faccenda, veda, lei dice: ma può la legge e la Repubblica farsi carico a quel punto di chi esprime questa volontà? No, un momento, aspetti, prima di questo c'è un'altra cosa. Nelle nostre leggi c'è il fatto che chiunque dia una mano a chi non è in condizioni fisiche a quel punto di fare in Italia quello che ha fatto DJ Fabo, cioè di mordere, perché ha bisogno di persone intorno, perché è paralizzato, non si può muovere, e viene sanzionato con pene molto di anni e anni. Quindi qui non è un ordinamento che dice: no, scusi, non fa parte della sanità pubblica. Qui è una cosa che dice: no, io vi mando in galera. Ecco, è una cosa. Ma per lei questo è un caso? Perché lei credo che ieri abbia fatto una dichiarazione del genere, dicendo che secondo lei è un caso di possibile omicidio di consenziente. Cioè, Marco Cappato andrebbe perseguito per legge, secondo lei? Ma questo ci penseranno i giudici, se lo vorranno fare. Ah, però mi dica lei che ne pensa. Ma diciamo che certamente adesso non le so dire, essendo stato il fatto commesso all'estero, ma sì, se il fatto fosse stato commesso in Italia, certamente sarebbe stato perseguibile. Il nostro ordinamento giuridico non è nato per caso, la nostra Costituzione, no, certo, anche nella sequenza degli articoli, mette all'inizio il tema vita, all'articolo 2, tra i principi fondamentali, mette dopo il tema vita, il tema della libertà, all'articolo 13, e arriviamo solo all'articolo 32 per parlare, appunto, tra l'altro nati in un contesto profondamente diverso, nel contesto del post-nazismo, del rifiuto delle cure, sì, lo mette all'articolo 32 tutto questo. Ora, tutto questo ha una sua logica, ha un suo significato, e corrisponde poi a una visione anche del codice penale, certamente, l'omicidio del consenziente. Ma al di là di questo esiste la registrazione di un costume, che è il costume di chi, se vede la persona che sta scavalcando il ponte, fa di tutto per fermarla, ma magari quella scelta è assolutamente libera, non c'è la scelta più libera talvolta del suicidio. La nostra società se ne fa carico perché ritiene che quella vita non sia solo un bene individuale, sia un bene anche di tutta la comunità. Sì, oddio, io nel caso di DJ Fabo mi sembra che la persona, abbiamo invitato la fidanzata, mi sembra la persona che sia stata curata col maggiore amore, con la maggiore cura, con la maggiore presenza da parte dei familiari, degli amici, della fidanzata, fino all'ultimo istante. Quindi non mi sembra una persona che si sia sentita sola in anzi tutt'altro. Però io vorrei capire da Maria Antonietta Farina perché rischia Marco Cappato l'incriminazione essendo stato compiuto questo atto in Svizzera, dove è consentito secondo un protocollo molto rigido. Allora perché Cappato rischia l'incriminazione? Beh, nel territorio italiano già esistono associazioni come Exit, sì, che fanno un servizio, cioè prestano informazioni, danno insomma tutte le delucidazioni per dare le garanzie possibili che le scelte insomma di raggiungere la Svizzera possono essere rispettate. Fino a questo momento conseguenze per queste associazioni, per responsabili di queste associazioni, non ce ne sono state, quindi non comprendo o meglio. Ma perché, attenzione, perché loro lo dicono sempre, io ho intervistato varie volte Emilio Coveri, loro mettono in contatto con gli svizzeri, diciamo, fanno un lavoro di raccordo, però in questo caso Cappato lo ha proprio accompagnato, no? E lui ha dichiarato di aver preso la macchina di DJ Fabo e di aver percorso nel territorio italiano il tragitto insomma fino alla clinica. E a me preme insomma anche ricordare come l'aiuto, il prestare la mano, il prestare l'assistenza adeguata quando ci viene richiesta è quello che tutti i cittadini dovrebbero fare. In richiesta di aiuto dovrebbe essere consentito di prestare appunto quell'aiuto. Gigli dice però una cosa diciamo non corretta, perché quando lui sostiene che salviamo la vita di chi sta tentando il suicidio, sì. In questo caso la volontà di DJ Fabo è stato sottoposto al vaglio sì. di medici al pari di Gigli, no? Quindi è stata fatta un'analisi, è stata fatta una rendicontazione. Lei dice, mentre se incrociamo uno su un ponte, uno non sa in quel momento e quindi interviene. Quindi non è che più una scelta è libera e l'altra meno libera, anche se è sottoposta al vaglio di un'equipe medico. Quindi attenzione a quando vogliamo strumentalmente paragonare la libertà, tra virgolette, del suicidio, insomma, di una persona che non è punibile rispetto invece a un suicidio assistito, parliamo di questi casi. Vogliamo sentire Massimiliano che ci chiama da Milano. Buongiorno. Massimiliano? Non c'è. Michele da Monza, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per darmi l'opportunità di esprimere quello che è un mio diritto. Io non capisco, ripeto, non capisco perché c'è questa pletora di gente che si intromette nella vita privata di un individuo e decidere cosa è etico e cosa non è etico. Se sono in uno stato laico e pago le tasse, io non sono cattolico e non voglio subire assolutamente la cultura cattolica del peccato se uno si toglie o non si toglie la vita. Voglio capire perché tutta questa gente si debba intrufolare nella nostra vita e decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Gente, mi perdoni e finisco, sì. Gente che io non conosco e che nelle mie difficoltà della vita ho mai visto o conosciuto. Queste persone che si preoccupano della vita e che tutti i giorni viene disprezzata a ogni singolo cittadino per quello che gli accade in questo Stato italiano, non si fanno vivi, non si sentono, e all'improvviso, quando è il momento che uno decide di stare la spina, si fanno vivi e dicono no, non puoi farlo. E quando sente dire insomma che la vita è un bene collettivo, dice ma dove sono quelli che lo ritengono? Sentiamo Massimiliano che l'abbiamo recuperato. Buongiorno, grazie sì. Michele da Monza. Massimiliano. Pronto, buongiorno, chiedo scusa. Prego. Nel 2013, l'ultimo dato Istat che ho trovato, ci sono stati 4.200 suicidi, quindi 4.000 scelte libere, come è stato detto precedentemente da alcuni vostri interlocutori, di togliersi la vita. Quindi non trovo e non vedo evidentemente impedimenti legali o morali, come diceva anche il vostro ultimo interlocutore, che abbiano impedito a queste persone di togliersi la vita. Ah beh, no, certo che nessuno ha impedito a togliersi la vita. E quindi io da un certo punto di vista mi chiedo che cosa si debba normare sul tema del suicidio assistito. Aggiungo una cosa. Ma il fatto forse che per farlo uno magari debba buttarsi da un tetto. Mi perdoni, se mi passa, se mi creda sulla parola, non voglio essere cinico, ma la differenza tra buttarsi da un ponte o impiccarsi e schiacciare un telecomando con i denti qual è? Nessuna, si è sempre da soli di fronte a questa cosa. Mi permetto anche di dire che il dramma ulteriore di DJ Fabo è che alla fine ha comunque dovuto fare tutto lui. A questo punto mi chiedo io che cosa devo normare come Stato? La possibilità che tu ti vada a suicidare in una... Ma ce l'hai già la possibilità. Tecnicamente ce l'hai già. Moralmente, anche se io sono contrario per cultura... Insomma, se proprio vogliamo, tecnicamente, essendo lui tetraplegico, non ce l'aveva, peraltro. Tecnicamente doveva essere assistito da un medico, perché, come dice lei, se proprio per non essere cinico allo stesso modo, non aveva la possibilità di salire su un ponte e buttarsi lì sotto. Perfetto, ho capito, ma questo è un dramma che andrebbe affrontato prima, non dopo. Cioè, il problema è che io non devo facilitare il credo, mi perdoni, io non credo di dover facilitare il togliere la vita. Devo capire perché uno si può togliere la vita, devo stargli vicino, devo capire come aiutarlo. Gli sono stati vicini in molti e lui ha deciso che quella non era più una vita degna di essere vissuta. Guardi, io non, ripeto, non voglio sembrare cinico, gli sono stati vicini in molti e alla fine lui ha dovuto schiacciare da solo il pulsante. Secondo me questo è significativo. Cioè, perché lui ha dovuto schiacciare da solo il pulsante? Perché allora non c'è stato qualcuno che gli ha dato una mano? Vedi, alla fine, ripeto, ma se l'hanno portato in Svizzera, hanno dato una mano così, perché se uno gli dà una mano, nel senso praticando un'eutanasia attiva, via, va in carcere in Italia, insomma, e quindi non... Comunque, insomma, questa è la sua posizione, Massimiliano. E comunque, lasciatemi dire, io oggi, come vedete, sono stato più zitto che mai, perché so già che bisogna ascoltare, parlare poco su queste cose. E il problema non è siete liberi di buttarvi, il problema è avere una norma che consenta a quali siano le procedure di accertamento in maniera indefettibile delle volontà dei soggetti, uno, due, che certifichi le condizioni nelle quali l'ordinamento accetta che in maniera assistita e partecipata la libera volontà prevalga su il principio generale. Ecco, queste due cose qui, stiamo parlando di questo. Tutte le leggi di fine vita e le forme in cui si può articolare sul sì o no a eutanasia attiva, passiva e anche invece la cosa del suicidio assistito che ha fatto DJ Fabo, ruotano intorno a queste due cose di fondo. In ogni caso, noi ci dobbiamo fermare qui, ringraziando Maria Antonietta Farina, presidente dell'Istituto Luca Coscioni, e Gianluigi Gigli, presidente del Movimento per la Vita e deputato. Con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia, noi ci ritroviamo domani, caro Oscar, anche se tu alle 16.30 sei qui a combattere addirittura, a fare il nostro mestiere, va bene. Dai, a domani.